Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Apriamo la settimana anche con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre e conosciamo una nuova voce, un'altra voce dall'ufficio legale dell'Adico, è l'avvocato Francesca Cois. Benvenuta. Grazie, buongiorno. Bentrovata allora per parlare, avvocato, di un altro caso particolare. Ce ne sono purtroppo non sempre isolati. Qui parliamo di una bolletta dell'acqua, giusto? Certamente. Cos'è successo? Questa nostra socia si è rivolta a noi poiché ha ricevuto verso fine dicembre una bolletta per la fornitura di acqua dall'importo di ben 3.600 euro con 7 giorni di scadenza e dovendo pagare questa somma grandissima e gravosissima per qualsiasi persona da uno stipendio normale, si è ritrovata ad avere 7 giorni di tempo per saldare appunto questo debito. Verificato appunto che il consumo fosse effettivo, ha contattato l'ente erogatore del servizio richiedendo una rateizzazione di questo importo davvero troppo troppo salato. Ecco, facciamo la storia. Questa signora da quando è che aveva l'utenza attivata? Allora, l'utenza attivata era di un anno e mezzo prima, quindi si parla di giugno 2011. E ha sempre regolarmente pagato tutte le fatture che aveva ricevuto, di importi non altissimi, però insomma sempre regolarmente pagato, adempiuto al suo anello di pagamento. Si è vista arrivare verso fine dicembre appunto questa bolletta dall'importo elevatissimo e, verificato appunto che non ci fossero perdite e quant'altro, ha contattato appunto l'ente per richiedere una rateizzazione di questa cifra troppo alta e insostenibile da pagare in un'unica soluzione in 7 giorni di tempo. Ecco, era una bolletta di conguaglio, giusto? Esatto, perché, una bolletta di conguaglio che è arrivata però un anno e mezzo dopo. Esattamente, esattamente. E alla richiesta appunto di un'eventuale rateizzazione, questo fornitore ha risposto che era possibile sì una rateizzazione, ma solamente previa presentazione di un'adeguata fideiussione bancaria a garanzia appunto di questo credito. Ovviamente è un ulteriore onere a carico della signora, perché già comunque una bolletta così alta, dover anche recarsi in banca per una fideiussione avendo anche già un mutuo acceso, le ipotesi sono alquanto insostenibili per la povera signora. Ecco, poi vedremo come state seguendo il caso. Per fortuna della signora dobbiamo dire che lei non pagava con il RID. Esattamente. Pagava con il bollettino. Certamente, altrimenti non si sarebbe assolutamente accorta di questo addebito. Si sarebbe accorta troppo tardi e avrebbe appunto rischiato di andare anche in rosso sul conto corrente. Certamente, meno male insomma che se n'è accorta per tempo. Perdite non ce n'erano. Quindi... Il consumo lei lo ha fatto perché ammette appunto di... Certamente, ma lei è ben consapevole di voler pagare, è molto disposta a voler pagare perché dice il consumo è effettivo, io però non posso pagare in un'unica soluzione, sono troppi soldi, io non guadagno tutti questi soldi. Certo. Sono una persona normalissima. E quindi una rateizzazione. E l'azienda ha risposto, serve una fideiussione, voi come state seguendo il caso? Noi riteniamo che la fideiussione bancaria sia pretestuosa, una richiesta irragionevole, perché comunque l'utente deve essere comunque tutelato, non può sobbarcarsi di un ulteriore onere economico. E appunto tante persone si trovano già in situazioni difficili, magari con mutui accesi o altri prestiti, non possono, a fronte di un loro diritto di richiesta di rateizzazione, dover anche sobbarcarsi appunto di un ulteriore onere economico. Avvocato, che consigli possiamo dare a chi dovesse vedersi insomma arrivare bollette del genere, che sono sempre quelle di conguaglio? Quelle di acconto generalmente sono piuttosto tranquille, sì, insomma, dal inferiori. Punto di vista della tariffa. A fronte di un ricevimento di una bolletta di conguaglio di importi così elevati, bisogna sempre sapere che si ha il diritto di chiedere una rateizzazione. In effetti anche c'è una deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e del gas che appunto stabilisce i casi in cui è possibile chiedere una rateizzazione del pagamento ed è proprio un diritto a favore dell'utente. E ovviamente l'ente fornitore è obbligato a concedere una rateizzazione. Un ulteriore consiglio che possiamo dare è quello di controllare periodicamente. Certamente, fare l'autolettura in ogni caso. Questa signora purtroppo non normalmente in tantissime forniture riceviamo delle fatture di bollettazione in cui c'è anche indicato se volete fate l'autolettura. Anche se non vi è scritto, come in questo caso, nelle bollette ricevute non c'era mai alcun riferimento a all'autolettura è sempre meglio comunque farla. Controllare che quello che c'è scritto in bolletta corrisponda. Esatto, gli effettivi consumi in base al contatore. In modo da non trovarsi brutte sorprese. Esattamente. E insospettirsi anche se magari le bollette che arrivano sono un po' troppo basse. Sì, certo. Sempre meglio andare a controllare. Magari una persona può avere il RID bancario, magari non ci fa più di tanto caso, però lo stesso un 4 volte all'anno sarebbe il caso di controllare appunto il funzionamento del contatore in modo da non avere magari conguagli troppo elevati. E brutte sorprese. Prese, come il caso di questa signora che speriamo si risolva positivamente, che voi state seguendo. Grazie allora all'avvocato Francesca Cois dell'ufficio legale dell'Adico e buona giornata. Arrivederci. Diritti e rovesci in collaborazione con Adico, associazione difesa consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.